Allora, l'Alakha insegna, Dunque, oggi. qui abbiamo all'inizio della pagina, il paragrafo 6 del capitolo 15 scusate, del capitolo 14 del Kitzur Shulchan Aruch. Ah, è vero questo, non è una presa in giro. Im Iher mi lavò le È Bet molto. HaKneset, se una persona dovesse arrivare tardi al Bet HaKneset, per tardi si intende ad le'achar she'itchilu ha'tzibur le'itpalel, dopo che il pubblico ha già cominciato la preghiera. E qual è il problema? Ve'im yitpalel kaseder, se la persona dovesse iniziare di proprio la sua tefilah dall'inizio, dopo che il pubblico già ha iniziato dall'inizio, lo yagia l'itpalel tfilat shmoneh esrei imaem, non farà in tempo a fare insieme a loro la Amidah. Perché bisogna capire che il cuore della Tefilah Betzibur, il concetto di Tefilah fatta in pubblico con Minyan, è il fatto che il Minyan insieme prega in particolare la Tefilah della Amidah. Se uno dice, ho pregato al Tempio oggi con un pubblico, però se ha fatto l'Amidah prima o dopo, non è considerato che ha pregato con il pubblico. Cioè, pregare con il pubblico vuol dire che si fa l'Amidah insieme. Che ci vuole Mignan? No. No, non è. Allora, se ci sono 100 persone che pregano, Vabbè, Mignan c'è. ascolta, se ci sono 100 persone che pregano, stanno facendo tutti l'Amidah insieme, perché stanno lì in quel punto della tefilah, e tu arrivi al Beta Knesset, loro stanno per iniziare per esempio lo Shema, e dopo 5 minuti faranno l'Amidah, no? Tu ancora devi mettere Talet, Tefilin, e quindi finché tu arrivi all'Amidah, loro già hanno finito di pregare, diciamo così. Tu quel giorno hai pregato con Minyan? No, perché anche se tu eri presente al Tempio c'erano 100 persone, non hai pregato con Minyan. Pregare con Minyan vuol dire che si prega insieme la Amidah, quella parte della Tefilah. Non solo che sei presente quando c'è un Minyan, o fai altri punti della Tefilah. Ok? Allora la persona, se dovesse arrivare tardi, dice: ma se faccio tutto, non arrivo a fare la Amidah con il pubblico, ed è importante cercare di pregare con il pubblico, come può rimediare? Questo adesso affrontiamo. Ok, capito tutto. Quindi quello abbiamo studiato la settimana scorsa è finito quel discorso. Adesso siamo alla Midah. No, è lo stesso discorso di Psukei di Zimra, perché stiamo cercando di capire se si possono saltare dei punti del Ah, Psukei di ok, Zimra sempre quel discorso per lì però. arrivare all'Amida. Sì, sempre lo stesso discorso. Allora l'Alakha dice così: se vede che non riuscirà a fare l'Amida con il pubblico e aggiunge Ha'ikar, siccome la cosa più importante, Ikar, essenziale, Hu Sheitpalel Shmonesre, è di fare la tefilah dei 18, si chiama l'Amida, I Matzibur, con il pubblico, al Ken, perciò, Yuchal Ledaleg Asherit Baer, avrà la possibilità di saltare dei pezzi, come adesso sarà spiegato e chiarito. La prima cosa che dice è: quello che è indispensabile non si può saltare. Cioè, se ancora non ha fatto le Birkot HaShachar, Ach Birkat al Netilat Yadayim, la Berakha della Netilat Yadayim, ovviamente che segue la Netilat Yadayim stessa, o Birkot HaTorah, le Berakhot relative alla Torah, Asher Kideshanu, Mitzvotav Tzivanu, Al Divrei Torah, Ve'arevna, Amelamet Torah Lamo Yisrael, Asher Bacharbanu Mikol Amim, Baruch Ata Hashem, Noten HaTorah, tutte queste Berakhot relative alla Torah. Però di regola se l'hai fatta a casa, Se l'hai fatto a casa, l'hai fatto. forse. Per questo ho detto, se ancora Ma non l'ha non c'è fatto, bisogno di ripeterli quando vengono assolutamente no. detti. Non c'è bisogno di ripeterli se uno l'ha già fatti a casa. Però quali sono questi indispensabili? Al Netilat Yadayim, le Berakhot della Torah, U Birkat Elokai Neshama, Shama Shenatata Bite Ora, eccetera, Leolam Tzarich Lomar Kodem HaTefilah. Questi non si possono saltare prima di iniziare la Tefilah. Questi comunque vanno detti. Vealken, e perciò, ecco adesso lo dice chiaramente, Imlo Amaram Bevetò, se non le ha già recitate a casa, allora Tzarich Leomram le deve dire recitare Bevet HaKneset, nella Bet HaKneset, nel Tempio. anche se dovesse mancare a fare l'amidà con il pubblico per questo motivo. Vafilu imali deisei itacher, anche se dovesse tardare per questo, milit palel imatzibur, e non riuscire a fare la tefilà dell'amidà di nuovo insieme al pubblico. Ok? Un'altra cosa indispensabile, adesso diremo, vegam, inoltre, kiriat shema, la lettura dello shema, im haberachot, insieme, accompagnata dalle berachot prima e dopo, cioè yotzer, yotzer ameorot, avatolam prima, e met viyatziv, e gal Israel dopo, è essenziale leggere questo prima di leggere l'amida, tzarich lomar davka, bisogna... Yotzer, tutto yotzer e lo shema, prima dello shemon essere, prima dell'amida, appunto, dehainu, cioè... שיתחיל ברכת יוצר אור, שואד על הברכה די יוצר אור, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, יוצר אור ובורא חושך, לא ויניציה על הברכה דלא שמה, ויתפלל כסדר, e pregi secondo l'ordine indicato nel libro, עד אחר ה-18 fino a dopo l'amida, בלי שום הפסק, senza alcuna interruzione, cioè non si interrompe tra Gaal Israel, all'inizio dell'amida. Ok? Aval she'ara berachot. Ora, queste sono le cose più indispensabili. Cioè, abbiamo detto Nitilat Adayim, Birkot Torah e Elokai Neshama. E lo Shema con tutte le sue berachot, quindi gli Yotzer, devono essere per forza prima dell'amida. Tutto il resto, dice, tutte le altre benedizioni. Vekola seder upsuke di Zimra, e tutto il rituale e i psuke di Zimra, di cui abbiamo parlato prima, senza Baruch Shamari Ishtabach, Yachole Omram gam leachar tefila, li potrà dire dopo la tefila. Ora, ci sono però altre opinioni, ci sono delle opinioni che sostengono che è preferibile fare la midà senza minyan piuttosto che saltare Baruch Shamari Ishtabach. Allora diciamo che in pratica potremmo dire che la cosa più indispensabile è scusate, queste berachot che abbiamo detto più Baruch Shamar Ashrei Yoshevetecha, perché tra Baruch Shamari Ishtabach va messo qualcosa. È un'introduzione e una conclusione, quindi se non c'è niente in mezzo, non ha senso. Baruch Shamar, Ashrei Yoshevetecha, Yishtabach, Yotzer, Shema, Amida. Vuol dire, uno può saltare tanti delle le cose iniziali, a parte lo Kaino Shema, le Brachot della mattina, come Ashrei Yish, Asher Lo'alach, Batzad Reshaim, e nel Psuche di Zimra tutti i salmi che seguono l'Ashrei Yoshevetecha. Per arrivare a fare l'amida con il minyan. Però se dovesse riuscire solo saltando questi pezzi, allora non lo può fare. Deve comunque recitare questi pezzi, anche se mancherà l'amida. A dire l'amida con il pubblico. Ok? Comunque la tefilà la deve fare. E questo è il nocciolo, diciamo, i punti più essenziali della tefilà. Dopo questi pezzi che stanno. Sì, se salta, per esempio, salta Vai Varech David, Asi Ashir, o Salmi, li rifà dopo, cioè li rifà, li riprende dopo. Dopo la midà che ha fatto col minyan. Esattamente, esattamente. Per non saltare il minyan. Ora rientra ancora nel pratico di questa cosa. Velachen, perciò, in base a quello che abbiamo detto, questo è il prossimo paragrafo, Leachar she'amar shalosh brachot anal, dopo che ha recitato le tre brachot sopra menzionate, cioè Netilat Adayim, Birkat Torah e Elokai Neshama, ve'iniach talit et tefilin, e si è messo di conseguenza talit et tefilin, im uroe, se lui vede in base al tempo che è rimasto e in base al minyan dove a che punto sta, se vede chi en lo ozman, se vede, si rende conto che non ha ancora tempo sufficiente, non ha più tempo sufficiente per arrivare a fare la midà con il pubblico, che possa appunto arrivare, giungere l'itpallel a pregare Shemones Re la Amidà imatzibur con il pubblico. L'unico modo che lo potrebbe fare è se saltasse fino agli Yotzer subito, avendo messo talete tefrin, subito inizia gli Yotzer. E la che si daleg viatchil bibrikat yotzer or, azai yatchil sham. Allora, secondo la sua opinione del Kitzur Shulchan Aruch, è bene iniziare lì. Noi abbiamo detto che è meglio, secondo molte opinioni, comunque dire Baruch Shem Ari Ishtabach. Lui però dice, come essenziale, essenziale, essenziale, può andare direttamente agli Yotzer. Io stamattina sono entrato, stavo iniziando gli Yotzer, quindi teoricamente potevo... Dopo le prime brachot, dopo Talet e Tefilin, teoricamente, attenendosi a questa opinione, potresti andare direttamente agli Yotzer. Dice, però, se ha tempo per dire anche Baruch Shem Ari Ashrei Yoshevetecha, Vim Yesh Lo Zman, se ha ancora tempo a disposizione, un po' di tempo, per recitare anche Baruch Shamar e Teilal David, Teilal David sarebbe Ashrei Shevetecha, Teilal David Aromimcha, eccetera, Ad Sofo, fino alla fine di quel salmo che è Shem Kocho Leolam Vaed, e Veishtabach, come dicevo prima, allora Yomrem aggiunga anche quelle tre, quei tre brani. Se ha ancora tempo, Yesh Lo Zman Yoter, se ha più tempo a disposizione, Yomar gam halleluca hallelukel bekocho. Ok? Cioè, l'ultimo delle halleluca, quello prima di Baruch, Hashem, l'olam, amen v'amen. Ad kol haneshamat alilia alleluia. Fino a, cioè, tutto il salmo. Im yesh lo zman yoter, se ha ancora tempo. Cioè, c'è una priorità tra i salmi, in altre parole. Halleluca hallelua Hashem min hashamayim. Se ha altro tempo ancora, Yesh Lo Zman Yoter, buongiorno, Yomar Gam Shara Luca, aggiunge anche gli altri salmi. Allora vuol dire, la priorità dei salmi qual è? Ashrei Yoshevetecha, se non c'è possibilità di Ashrei Yoshevetecha, allora non c'è neanche Baruch Shem Ari Ishtabach, cioè quello deve essere. Secondo luogo, se c'è tempo, l'ultimo di Luca, che conclude con Kol HaNeshama. Se c'è ancora tempo... Alleluca, alleluia Hashem min hashamayim, alleluia bamiromim, alleluia kol malachav, alleluia kol sevav, questo che, salmo che qui. Che è il penultimo. Che è... No, è quello tutto prima del penultimo. Ma alla fine prima a cercarli... Sì, lo vedi nel libro. Ci metti più a cercarli che a dirli. Sì, devi avere lo schema scritto. Se hai ancora tempo dopo di questo, allora aggiunge anche gli altri salmi rimasti. E se ancora c'è tempo, aggiunge anche Vayivarech David. Vayivarech David et Hashem l'nekol kal. Se ancora c'è tempo, vabbè, alla fine aggiunge anche Hodu dall'inizio, il salmo che si dice prima di Baruch Shem. Hodu. Sì? Scusa, sempre l'esempio che hai fatto prima, che sono 100 persone che pregano, no? Sì. Tu arrivi tardi. Ricominci da capo, quello a prescindere dove stanno. Però nella tefilà ci sono dei brani. Tu hai detto che non fai parte del Minyan se fai per conto tuo. Sì. E i brani in cui c'è scritto che questo tipo i 13 attributi si recita con Minyan. Tu non dici questo. Lo studieremo. Sì, lo dici. Ah. In quasi tutti, in molti punti dei tefilà, tu interrompi e dici quello con il Minyan. Anche per il Kaddish. Vedremo. Anche per il Kaddish. Vedremo anche il Kaddish, specifico quali amen si rispondono, quali non si rispondono, in che punto del tefilà ti trovi. Però dico, se voi l'avete già detto. Capito. Ah, no, se dico. Loro l'hanno già detto, tu non lo dici. Sì, salto. Okay. Appunto, dicevamo, Vim Yesh Lo Zman Yoter, se ancora ha ulteriore tempo, Yomar Gam Hodu Adve Urachum. Recita il brano di Hodu, Hashem Kiru Bishmo Odiu Bamim Alilotav, fino al versetto Veurachum, e poi salta da lì, perché già ha fatto gli altri salmi che in realtà verrebbero dopo, Ad veurachum shekodem ashrei, sham yatchil, inizia prima di ashrei. Cioè, se ha tempo di dire hodu, e poi ashrei shevetecha, eccetera. Ora, riguardo Shabbat e Moed, che si aggiungono ulteriori salmi, quindi è più difficile raggiungere se uno arriva tardi, vuol dire che arriva molto tardi, perché Shabbat si inizia anche tardi. Va mizmorim shemosifim be Shabbat u be yom tov, i salmi che si aggiungono durante Shabbat e Moed, Imen lo zman leomram, se non ha tempo per dirli, per poter raggiungere il minyan, per fare appunto la midah insieme, azai kol hamizmorim vapsukim shomrim otam bechol yom yesh lahem kedima, lahem hakedima. Cioè, i versetti che si dicono tutti i giorni hanno la priorità rispetto ai versetti che si, ai salmi che si dicono solo di Shabbat. Se è Shabbat e devi fare una scelta tra questi salmi e quelli, la precedenza ce l'hanno i salmi che si dicono tutti i giorni. Poi, se hai ancora tempo, può dare spazio ai salmi che si dicono di Shabbat. quelli più frequenti, esatto. Vim yesh lo zman lomar ktsat gam elu shemosifim, e se ha possibilità di dire tutti quelli che si dicono più frequentemente tutti i giorni, e può magari aggiungere anche qualcosa dello Shabbat, quali dello Shabbat stesso hanno precedenza tra di loro? Dice Nirali, secondo me, tebi Shabbat ubi Yom Kippurim, Mizmor Shir li Yom Shabbat ve Alel Gadol. Le prime che hanno priorità sono Mizmor Shir li Yom Shabbat, Tov Leodot e Alel Gadol. Alel Gadol è il titolo del salmo che è Ki Leolam Chasto. Odu Lashem Kitov, Ki Leolam Chasto, Odu Lo Kelukim, Ki Leolam Chasto. Questo si chiama Alel Gadol, il grande lode. Dipende in quale rito. Comunque sì, sì, quello. Le Makdima, loro hanno la priorità. Bishar Yom Tov, dice però in altri Moadim, oltre Shabbat e Kippur, non diamo la priorità a Mizmor Shir Yom Shabbat, diamo la priorità a questa Alel Gadol, Odu Lashem Kitov Ki Leolam Chasto. Le Alel Gadol e Vada Kdima. E achar kach, e dopo, possiamo aggiungere altri Mizmorim che si aggiungono, che a Roma si aggiunge solo uno di questi tre che lui cita, l'Amnatzeach, le David Beshanotò e Tefilà le Moshe. A Roma si dice solo le David Beshanotò, Shabbat e Moed. Bechol eilu ha-mizmorim va-psukim yomrem kodim ishtabach. Ovviamente tutti questi salmi che ha modo di aggiungere, cioè di non saltare, li dice prima di arrivare a ishtabach, chiaramente. Non è che dice faccio ishtabach e poi vedo quanto tempo mi è rimasto. No, deve calcolare, perché ishtabach è la chiusura di questi salmi. Ok, quindi cerca di calcolare quanti salmi riesce a dire, li dice prima di arrivare a Ishtabach. E dopo, avendo finito la tefilà, come dicevamo anche prima, uleachar gemara tefilà, dopo che ha concluso tutta la tefilà con il minyan, torna indietro, yashlim kol ma shedileg, dovrà quindi come si chiama, leashlim, concludere. Concludere, non ripetere perché non l'ha detto, concludere. Finito. Quello che non ha detto, sì. Quello che ha saltato lo dice dopo la tefila. Integrare, segue queste priorità fin qui indicate, dopodiché va, e dopo finita la tefila, quello che non ha detto per seguire la priorità lo dice dopo, esattamente, anche va integrato dopo, così a scacchiera come sono rimasto. Mm-hmm. Sì, bravo. Quello che fai tu quando vieni in ritardo. Lui. Rak solamente Baruch Sheamar ve Yishtabach, questi due pezzi di Baruch Sheamar e Yishtabach, se non li avesse detti prima dello Shema nel loro posto, e Nomrim Lachar HaTefilah, questi non vanno integrati dopo la tefilah. Se non li ha detti, non li ha detti quel giorno. Ok, se però la persona arriva al tempio e è così tardi che anche se dovesse iniziare dagli Yotzer direttamente, ancora non farebbe in tempo a fare la midà con tutti, allora in quel caso cosa fa? Si mette a casa. Fa tutta la tefilà con calma. No, non deve andare a casa. Abbiamo studiato che il tempio è più importante della casa, anche quando non c'è minyan. Vabbè, ma gli conviene venire all'ora, perché se no... Sì. Fa tutto con calma, cioè non si pone il problema di aggiungerli. Dall'inizio la dice tutta per conto suo. Vuol dire, non può saltare gli Yotzer, sì, quindi deve fare tutta la tefilà. La fa e gli altri vanno avanti. Guarda. Esattamente. Ve'im ro'e se vede she'afilu im yatchil bibirkat yotzeror, anche se dovesse iniziare direttamente dagli Yotzer, appunto. Lo yuchal itpalel shmonesre, non avrà possibilità di fare la amida im atzibur, con il pubblico, e la imken yemaher, se non che lo fa molto rapidamente, vuol dire potrebbe anche rientrarci, però lo deve dire molto rapidamente, no, non va bene, meglio fare tutta la tefila con calma e non raggiungere il pubblico. Come? Rischia di non mettere chavana. Sì, non lo fa in maniera bella. Tovlo yoter litpalel bifne atzmo, dice chiaramente. È meglio pregare da solo invece che accelerare, e ormai che prega da solo, casseder, secondo l'ordine indicato normale, bimmetinutu bekavana, come ha detto Donato, con calma e con concentrazione. Però per il conteggio del minyan conta sempre, cioè se... Anche questa se... è una domanda non semplice, cioè la risposta, sì, non è semplice, perché dipende. Cioè, se serve per Kaddish, non c'è risposta. Sto dicendo, lo approfondiremo un pochino più avanti. Cosa è considerato minyan? Perché a volte ci sono 10 persone, ma non si può fare alcuni punti della tefilah. Certo. Cosa vuol dire? Vuol dire che per i punti centrali, sicuramente per la midah, meglio anche dagli ishtabach, ci devono essere una maggioranza dei 10, cioè almeno 6 che stanno a passo con il minyan e che possono rispondere se se ne ai... E per ciò che riguarda invece la risposta alla midah, devono essere 9 almeno che possono rispondere amen alla ripetizione della midah. Questo lo vedremo più avanti. Perché il decimo è quello che legge, quindi... Sì, spesso si vede magari che c'è un minyan ristretto, ci sono poche persone, allora il officiante prima di iniziare la midah va a cercare, ci siamo in 6? Sì, sì. E se no non inizia, aspetta, perché se no non è considerato minyan. Ora, prossima ipotesi. In Bale Beta Knesset, se la persona giunge al Tempio... E loro stanno iniziando Baruch Shamar, Pesuke di Zimra, un po' più indietro rispetto a quello che arrivava l'altra volta. Però ven lo taleto tfilin, lui non ha appresso il talete e i tefilin, sta aspettando che qualcuno glieli porta da fuori dal tempio, oppure che qualcuno che lì glieli dà, comunque non ce li ha al momento. È in attesa che gli si arrivano. Che qualcuno glieli porta. Prima che lui mette i talit e tefilin, può già iniziare a pregare. Yachol itpalel gam kem psuke di zimra. Può fare tutte le berachot iniziali, ovviamente, ma anche psuke di zimra, cioè Baruch Shamar, iniziare i mismorim, cioè i salmi che seguono Baruch Shamar. Uke sheyaviu lo talit e tefilin, quando gli arrivano i talit e tefilin, e lui magari sta ancora in mezzo ai salmi, non li mette subito. Aspetta di finire Yishtabach, così si conclude questa parentesi di Psukei di Zimra, e non interrompe in mezzo per mettere Talet e Tefilin. Dopo Yishtabach, prima di Yotzer, si mette il suo Talet e i suoi Tefilin. Questo si chiama Ben Yishtabach le Yotzer, tra Yishtabach e Yotzer, perché lui deve interrompere per mettere Talet e Tefilin. Certo. È meglio interrompere tra Yishtabach e Yotzer, che sono due aspetti diversi della Tefilah, che in mezzo al Psukei di Zimra. Ok, Yanichem leachar Yishtabach, li metta i tefilin e il talet dopo di Yishtabach, prima di Birkat Yotzeror, prima della benedizione di Yotzer, vivarech alehem, e a quel punto interrompe, cioè che dice anche la Berachah sul talet e sui tefilin. Però qui si fa l'ipotesi che se lui, mettendo i talet e tefilin, crede di non arrivare in tempo a fare la midah con il minyan, cioè di perdere il punto in cui è arrivato perché magari ci mette qualche minuto, mette talet e tefilin e poi forse non arriverà a fare la midah insieme a tutti, allora può saltare secondo lo schema che abbiamo fatto prima. E li mette dopo. E li mette sempre nello stesso punto, però avendo saltato dei mismorim secondo lo schema che abbiamo detto prima, cioè lui magari stanno arrivati a Shrei Shrevetecha, non metti dei tefilin, non recita dei salmi, metti dei tefilin, o non metti dei tefilin, i tefilin li mette sempre nello stesso punto tra Yishtabach e Yotzer. Allora l'esempio, il caso è questo: io sono arrivato un po' tardi, stanno già facendo Baruch Shamar, talit e tefilin non ho, cosa faccio? Mi unisco al pubblico e inizio a dire Baruch Shamar, arrivo ad Shrei Shrevetecha e poi mi rendo conto, se io adesso prego insieme al minyan e poi arrivo a Yishtabach, dopo Yishtabach mi metto i tefilin, loro intanto vanno avanti, arrivano magari allo Shema, io devo iniziare Yotzer, e loro arrivano alla Midah, io sto facendo lo Shema, non riesco a fare la Midah con il pubblico, che faccio? Adesso, no certo che me li metto, ascolta, adesso che sto nella Shriya Shevetecha, salto il prossimo salmo, arrivo prima a Yishtabach. Secondo lo schema percorso di recupero, tra virgolette, che abbiamo detto prima, in base a questo salto alcuni salmi per arrivare io prima a Yishtabach, in modo tale che mi metto i tefilin inizio a ripregare di nuovo con tutti e arrivo alla Midah insieme a tutti. Comunque la Midah deve arrivare sempre con i tefilin, certo. Poi lo ripete dopo la Sheba, dopo la Midah. Chiaro. Recupera. Sì, poi recupera, come abbiamo detto prima, quei salmi che eventualmente avesse saltato li recupererà dopo. Ok? Yes. Bene. Ora, Dinei Hatzakot Bikriyat Shema. Allora, la prossima pagina è quella nella quale si parla delle no, devi andare a pagina 119, che le leggi che riguardano l'interruzione durante il Yotzer, le Brachot dello Shema e lo Shema. Questa è una cosa che si lega a quello che stiamo studiando il lunedì nella Gemara riguardo le interruzioni tra i brani o in mezzo ai brani, eccetera. Kriyat Shema Beshalosh Birchotea, lo Shema e le tre berachot relative allo Shema, stiamo parlando la mattina, perché la sera ce ne sono quattro. Shehen, che sarebbero Yotzer Or, la prima Yotzer, la seconda Ahava Rabba, che nel nostro rito è scritto Ahavat Olam, ci sono due riti, e poi Emet V'Yatziv, quella che segue lo Shema fino a Gal Israel, e appunto anche nell'Arvit, Kriyat Shema o Birchotea, che si aggiunge un'altra berachà nell'Arvit, anche Ashkivenu. Hen chamurim yoter mipsuke di zimra. Questo punto della tefilah ha una regola più rigorosa, più severa rispetto a quella che riguarda i psuke di zimra. Cioè, per ciò che riguarda l'interruzione, è più severo qui che nel psuke di zimra. Vehen nechlakim li prakim. Allora, innanzitutto, bisogna capire che ci sono, che sono divisibili in brani, in capitoli cosiddetti, brani diversi. Quali sono gli intervalli tra un brano e l'altro? Ve eluhen ben aperakim. I seguenti sono gli intervalli. Primo ben yotzer ameorot le avarabah, cioè concluso yotzer ameorot prima di iniziare avat olam, questo è un intervallo. Dove teoricamente per alcune cose potremmo interrompere, vedremo per cosa. Non per parlare così del tempo. Vedremo. Poi il secondo intervallo è Ben Habocher Bamo Israel Be'ava le Shema Israel, conclusione della seconda Berachah prima di iniziare Shema Israel. Poi il prossimo intervallo è Ben Ubishearecha le Vayaim Shamoa, quindi il primo brano dello Shema prima di iniziare il secondo. Prossimo intervallo è Ben Ala Arez le Vayomer, cioè tra il secondo brano dello Shema e il terzo brano. Ora, tra un brano e l'altro c'è un intervallo, e quindi cosa mi aiuta questo intervallo? Allora adesso dice nel secondo paragrafo Ben Aprakim, tra un brano e l'altro Mutar Lomar Amen, è permesso rispondere Amen al Kol Berachah Sheushomea. Qualsiasi brachà che una persona dovesse sentire mentre è fermo tra un brano e l'altro, in queste pause che hai detto adesso. Esattamente, in queste pause risponde Amen. Deve rispondere Amen. Non può dire no, non posso interrompere. No, qui può interrompere per rispondere Amen ad una brachà. Che sia una brachà della ripetizione della Midah, che sia una brachà che qualcuno vicino a lui ha messo i tefilin. Qualsiasi brachà, col brachà, risponde Amen. Un Mikol Sheken ha maggior ragione che può dare delle risposte che sono considerate in questo schema più importanti ancora di Amen, che sono quali? Kedusha, cioè Kadosh, Kadosh, e Baruch Kevod Hashem Mimekomo e Yimloch. La Kedusha sono tre risposte. Le tre risposte della Kedusha. Kadish, Amen del Kadish. E la risposta di Barechu, se sentiamo uno che dice Barechu et Hashem Mevorach, se ci troviamo in uno di questi intervalli, rispondiamo Baruch Hashem Mevorach l'Olam Va'ed. Del Kaddish solo l'Amen, è quello che si accompagna in quei... Il Barach, anche Yesh Merabba. Aval, però, attenzione, Baruchu Baruch Shemo lo Yomar. La risposta di Baruch Baruch Shemo non la dica, anche abbiamo detto anche nel Psuche di Zimra addirittura non si dice Baruch Baruch Shemo, perché non è un obbligo, è un'usanza. Vabbè, può rispondere a qualunque cosa in cui si deve rispondere, fondamentalmente. Non risponde Baruch Baruch Shemo? Sì, ma non è un obbligo quello, no? Vero, però bisogna indicarlo che non si risponde. Cioè questi qua non nella pausa. Non nella, non questi qua può dire solo nella pausa. Solo nell'intervallo tra un brano e l'altro può rispondere a meno a qualsiasi Berakha, Kedusha e Barechu. Può pure salutare. Mentre lui sta pregando, sta facendo Avatolama e l'ufficiante fa la Kedusha, non risponde, rimane in silenzio e ascolta. Però non può rispondere. Ma tutto questo perché è in ritardo. Forse loro stanno in ritardo. No, voglio dire, lui no, scusa. Comunque lui non è a passo con il minyan. Risponde che non è a passo, però interrompe quelle quello che sta dicendo e dice amen. Se si trova preghiera, tra un brano e l'altro, allora può rispondere a me. Se si trova in mezzo al brano, come diceva Alessandro, non risponde, solo ascolta. Questo volevo sapere. Inoltre, Vegamim Shomea Shakal Omrim Kriyat Shema, normalmente la halakha è che se tu senti un pubblico che dice lo Shema, fermi qualsiasi cosa che stai facendo e reciti con loro il primo versetto. Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. E questo vale anche nel Psukei di Zimra. Se ti trovi tra Baruch Shamar Yishtabach, in qualsiasi punto, e il pubblico, di nuovo sei in ritardo, e il pubblico dice lo Shema, tu ti fermi, ti copri gli occhi e reciti insieme a loro lo Shema, cioè solo il primo versetto, fino a Shem Echad, e poi riprendi. Ora, invece, se stai già nella Yotzer, nelle Berachot dello Shema, anche se ti trovi tra un brano e l'altro, non interrompi per dire Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Però, qui c'è un halakha interessante. Lo yomari memet pasuk Shema Israel. Questo vale solo per Psukei di Zimra, che ti fermi e dici Shema Israel. Ma nel Birkot dello Shema e nello Shema no. Però, qual è il motivo per cui ci si ferma per dire Shema Israel negli altri punti della Tefila dove si può più facilmente interrompere? Perché non sembra che tu non accetti l'affermazione di Shema Israel, mai sia. Siccome l'affermazione della nostra Emunah, Shema Israel, che Hashem è uno, e Hashem è nostro Dio, non è normale che se uno va in Minyan e sta pregando al Tempio, loro dicono Shema Israel e lui non dice, sembra che non è d'accordo. O comunque non vogliamo far sembrare che non sia d'accordo. Ma per questo interrompe e dice, visto che qui non può interrompere, allora cosa deve fare? Si rischia che magari si potrebbe pensare che non è d'accordo, ma sia, no? Allora cosa fa? Non sono d'accordo io. Recita ad alta voce quello che sta dicendo in una maniera che non si può capire quello che sta dicendo, sembra che si sta unendo allo Shema Israel del pubblico, quindi serve agli altri. Se lui dice, serve agli altri, non il pubblico dice Shema, che se Dio si fa d'accordo la halakha. Sì, ma ci può dire je comprends pas. Ecco, okay. Puoi dire non ho capito, puoi dire non sono d'accordo. Abbassa la testa. Ma scusa, ma se uno sta facendo tefilà è implicito che c'ha l'emunà, no? Se no non sarebbe a fare tefilà, sarebbe da un'altra parte. Magari fosse così. Non è automatico. Perché tu ti trovi in un contesto. No, ti spiego, è ovvio quello che fai, un'ottima domanda. Tu ti trovi in un contesto dove chi va a fare tefilà, chi è interessato a fare tefilà? Chi oggi non è interessato a questo tipo di cosa? Cosa fa? Non va al tempio. Ok? Però non è sempre stato così. In alcune culture, in molti periodi storici, tutti andavano a riunirsi alla sinagoga o al luogo di culto, quello che era, anche se avevano forse delle idee diverse. Quindi era molto valida questa cosa del rendere esplicito rendere esplicita questa affermazione. Perché il dissenso era assolutamente pensabile che ci sia, anche tra chi viene, in particolare quando parliamo di gruppi... estremisti. Sì, diciamo gruppi estremisti, nel senso che potessero avere qualche idea di seguire la Torah a modo loro, però non nella maniera indicata, eccetera. Divergenti, eccetera. Cioè, molte possibilità che fanno sì che questa cosa, visto in questa ottica, diventa molto valida. Certo, oggi tu dici, scusa, quello non è d'accordo, non va al tempio. Chi lo fa fare di andare al tempio? Tipo no. Leonardo, invece non è sempre cosa così. Adesso va a venire al tempio. Allora, cosa deve fare? L'Alaha dice, di alzare un po' la voce, ecco, sembra che ti unisci allo Shema, anche se non stai dicendo lo Shema. Questo sei dopo Ishtabach. Sei dopo Ishtabach, bravissimo. Cioè, se hai iniziato Yotzer. Sheheni ra keilu korei mahem, che sembri che stia dicendo lo Shema insieme a loro. Ok? Se invece, abbiamo detto tra i brani, ora se invece non è tra gli intervalli, è in mezzo a uno, come diceva Alessandro, in mezzo a Vatolam, no? Allora lì non risponde Amen. Beemza perek eino one Amen. Se qualcuno dicesse una berakha, se c'è il Kaddish o la ripetizione della Midah, non si risponde Amen, ma ci sono alcune eccezioni a questa regola. Qual è l'eccezione? Due benedizioni della Midah, della ripetizione, risponde comunque Amen, anche se si trova in mezzo a un brano. Quali sono questi due? Vediamo. Rak achar birkat hakel kadosh, quella che segue la kedusha, hakel kadosh, lì si risponde Amen. E secondo, achar birkat shomea tefillah, avendo sentito shomea tefillah si risponde Amen anche se ci troviamo in mezzo a un brano. Inoltre altre eccezioni, ube kadish si dice il Amen di Amen yesh merabam varach lalam lamei al maya, quel Amen si risponde con yesh merabam, e anche l'ultimo del mezzo Kaddish, cioè da Amiran Be'alma Vimru Amen. Cioè Omera Shaliach Tzibur da Amiran Be'alma Vimru Amen, anche si risponde Amen. Ma tutti gli altri Amen non si rispondono. Ushear Amenim Sheba Kaddish Lo Yamen, non risponde gli altri Amen anche del Kaddish, perché Sheinam Meikara Kaddish. Questi due Amen sono la parte più essenziale qual del Kaddish. Qual è il terzo che è quello dopo era Kaddosh? Quello Shomea Tefila. Shomea Tefila. Amen Yesh Meraba. Ah. E Amen di da Amiran Be'alma Vimru Amen nel Kaddish, quello che è prima di Tit Kabal o di Yesh Lamaraba, o è l'ultimo se si dice il mezzo Kaddish. Kaddish è breve. Ubik Dusha, se sta in mezzo appunto alla Kedusha, in mezzo alla Vatolan per esempio, e si dice Kedusha, tutti stanno in piedi per dire la Kedusha, cosa deve fare? Yishtok, deve stare in silenzio, Vishma, e ascoltare Mishliach Tzibur. Quindi interrompe la lettura, ma non interrompe con la parola, esattamente. Viomar im kola kahal. E le risposte? Abbiamo detto che solo alla fine. Anche questa è un'eccezione, almeno secondo questa opinione. Cioè che lui risponde le tre risposte di Kadosh, Baruch e... solo queste due, Kadosh, Kadosh, Kadosh, Hashem, Tzvot, Moloch, Laretz, Kevodo, e Baruch, Kevod, Hashem, Imikomo. Ma non Nakdishach, come alcuni dicono con il Chazan Nakdishach, e non Imloch. Perché queste due risposte sono la parte più essenziale della Kedusha. Vioter lo Yomar, e più di ciò non dica, non interrompa, perché Sheino, Mikara, Kedusha. Gli altri pezzi sono, diciamo così, non della parte più essenziale della Kedusha. Ma questo vale anche se io arrivo al Tempio per la lettura del Sefer Torah durante Shabbat e durante Musaf, come mi devo comportare? Cioè durante la Kedushah di Musaf. Tu dove ti trovi quando loro fanno la Kedushah di Musaf? A che punto trovi? Io sono arrivato al Tempio per la lettura del Sefer di Shabbat, ho fatto tutte le preghiere a casa e vado al Tempio. E allora? Durante la Midah. Aspetta, se tu hai fatto la Tefilah. Ascolta. Se tu hai fatto la Tefilah, che problema ti si pone? Qui stiamo parlando da solo a casa, va bene? Al Tempio. Qui stiamo parlando di interrompere per dire cose mentre stai facendo la tefilà. Ma se tu hai già fatto la tefilà, che interruzione c'è? Hai fatto a casa, è uguale. Sì, me lo porto normalmente. Presupposto che non partecipi. Il presupposto che partecipi, ma non ripeti quello che hai già fatto a casa. No, non ripeto quello che ho fatto a casa. Se già hai fatto Musaf a casa, non rifai Musaf qui, solo rispondi a tutte le cose. Non ti si pone il problema perché non stai in mezzo a qualcosa che ti devi porre il problema dove interrompo o dove non interrompo. Il presupposto è che tu stia normalmente per la preghiera. Stia facendo una cosa in ritardo rispetto agli altri. Sì. Inoltre, Vim Shomea Barehu, se in mezzo alla benedizione sente Barehu, ok? Sia dall'ufficiante che da chi va a Sefer, ben mino Shaliach Tzibur, ben mino le la Torah, one Baruch Hashem Orach Lamved, risponde Baruch Hashem Orach Lamved, anche in mezzo a un brano. וגם אמן שאחר ברכות העולה. אנקה ריספונדה אמן על הברכה דיקי ויאנה קיימתו על ספר. נותן התורה, ריספונדה אמן. Se il pubblico dice modim, che c'è la risposta del pubblico modim, eccetera, dice solo le prime tre parole. Modim anachnu lach. Basta. Ve lo yoter. Ora pone una questione che in realtà non è legata al punto in cui si trova il minyan, perché potrebbe interessare tutto il minyan. Se capita una situazione dove normalmente si dovrebbe dire una berakha, però capita a sorpresa, qual è questa situazione? Se si sente un tuono, siccome c'è la berakha che si dice quando si sentono i tuoni, sì. C'è la berakha dei tuoni e dei lampi, anche se non vedi i lampi. Allora, cosa fa? Deve interrompere o non deve interrompere? Ci sono due opinioni. Se piove sta a casa c'è sole, va? Così non c'è il tuono. Nessuno sta pure a casa. Infatti, se piove sta a casa, se c'è sole va. Però cosa cambia se sta a casa o no? Il tuono, no, non c'è poi il problema se qualcun altro dice la verità. No! Ah, per dire, proprio. Infatti ho detto questo, non interessa tutto il miniano. Interessa anche quello che sta giusto, scusa. Non interessa l'interruzione del singolo. E tutti la dovrebbero dire, se si sente. No? Certo. Ok, c'è una differenza di opinione. Alcuni poskim, alcuni maestri di Halakha dicono che bisogna interrompere e dire la berakha del tuono, altri invece dicono che non si interrompe. Io credo che l'uso comune sia che non si interrompe per dire la berakha del tuono. Si prosegue la tefilà normalmente. Com'è la berakha del tuono, scusa? La berakha del tuono è Baruch Atah Hashem Kelmecholam Shekocho Ugvurato Male Olam. Cioè la sua forza, la sua potenza riempie il mondo. Cioè una cosa che ci fa riconoscere la potenza di HaKadosh Baruch Hu, e quindi si coglie l'occasione, diciamo così. Ci sono diverse brachot che si dicono per cogliere l'occasione. Ma non rientra nella faccenda del pericolo? No. No. Non è un pericolo? No. Ecco. Se no si poteva interrompere. Se era una questione di pericolo si poteva interrompere. Sì, pericolo certo, no, quello è un altro discorso, certo. Perché i lampi, se ti casca addosso. No, certo, no. E allora, l'ultimo che facciamo oggi è questo seguente. Queste interruzioni di cui abbiamo parlato, Elo Afsakot, Shemarnu, Shemutar Lafsik Bemza Perek, abbiamo detto che alcune cose si possono dire mentre ci si trova in mezzo al brano. In mezzo al brano vuol dire anche non solo di Avat Olam, ma anche dello Shema stesso, per esempio. Mi trovo in mezzo, no? Vesartem, Vavatem, Lo Yuchelim, Shtachavitem, Lemba. Qualcuno, il Chazan dice, Itkadal, Vitkadal, Shemerabah. E arriva a Amen Yeshmerabah, che è permesso rispondere anche in mezzo al brano. Allora dice, Imu Bebrachot, se ci si trova all'interno di una benedizione, come in mezzo a Avat Olam, o in mezzo allo Shema, come dicevo l'esempio, cerca di interrompere per rispondere laddove bisogna rispondere, dove conclude un argomento. Ecco perché è anche importante sapere quello che si dice nella tefila. Uno finisce in mezzo, ma non è la fine di una frase, non ha senso. Cerca, non è sempre possibile, perché se l'amen va avanti il chazan, no? L'ufficiante, se riesce a concludere dove si conclude un argomento e lì interrompere, bene. Se invece, come dicevo prima, si trova nello Shema, almeno tra un versetto e l'altro. All'interno di un brano ci sono tanti versetti, no? Quindi sì, è vero, puoi interrompere in mezzo al brano, ma cerca di non interrompere in mezzo al versetto, se possibile. Però c'è sempre l'ipotesi che questo non sia possibile, perché appunto l'ufficiante va avanti. Se questo non è possibile, allora, quando abbiamo detto che è permesso interrompere in mezzo al brano, si può interrompere anche in mezzo al versetto e in mezzo all'argomento, se non è possibile fare diversamente. Mutarlo leafsik afilu bemza pasuk viatchil achar kach mitchilat pasuk. Solamente se ha interrotto in mezzo a un versetto, dopo che ha risposto quel Amen Yesh Merabah, diciamo per esempio, torna all'inizio di quel versetto, per appunto recitarlo tutto intero e non spezzato. Ok, fino a qui, poi se Dio vuole riprendiamo. Thank you. Grazie.